La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. È uscito per Einaudi un libro di racconti, Fantasmagonia, di Michele Mari. Oh, io questo scrittore lo nomino con prudenza. E come si fa a parlare di Michele Mari? È come trovarsi davanti al grande oceano, infatti già il nome, no? Mari, fa capire la vastità nella quale si muove. Oppure alle verità fantastiche di Giulio Verne o agli elenchi geniali ed esasperanti di Rabelais. Certi autori bisogna soltanto leggerli. Io l'ho visto una volta sola, a Parigi, 13-14 anni fa, a un convegno letterario, e fra i sospettosi letterati si aggirava questo bello zingaro alto, scuro, e si capiva subito che era matto, come Stevenson, come Giorgio Manganelli, come Céline, come Gatta. Poi ho saputo una cosa di Michele Mari che me lo ha reso leggendario come Jack London. Un critico del Corriere della Sera aveva scritto male di lui, ma non era un attacco letterario, erano delle infamie che lui diceva, personali anche. Allora il Mari va al giornale, lo cerca e gli dice: «Lei è il tale? Io sono Michele Mari». Pah! E gli dà uno schiaffo in faccia. Uno schiaffo antico, uno schiaffo da gentiluomo, uno schiaffo da duello, uno schiaffo da Tex. Poi ho avuto il tardivo ma profondissimo piacere di cominciare a leggere i libri di questo autore coltissimo e giocoso che oscilla tra il noir, il burlesco, luminoso sempre, con una prosa che, devo dire, ti rallegri di essere italiano perché puoi gustare la lingua fino in fondo. Per primo ho letto Tu, sanguinosa infanzia, poi l'ho fatto leggere in casa ce lo teniamo a turno sui vari comodini. Questo libricino un po' verde, pubblicato da Mondadori, grande come una mano, non di più. Il protagonista del libro, I giornalini, è un professore, un sapiente, con una biblioteca prestigiosa, un grande intellettuale, al quale è stato appena annunciato che nascerà il suo primo figlio. Allora si chiude solennemente nel suo studio per meditare sulla nuova responsabilità. Il suo sguardo percorre la sua grande biblioteca seriosa, capisce che la prima cosa che deve fare per prepararsi alla nascita del figlio è mettere in salvo la sua collezione di fumetti. Leggo un pezzettino di questo racconto. Quando seppe che sarebbe diventato padre, il professor, e qui non c'è il nome, si chiuse a lungo nel suo studio per riordinare le idee. Nell'incertezza del futuro, uscì da quella stanza con una certezza. I giornalini, i cari giornalini della sua infanzia, dovevano essere messi in salvo. Da 30 anni, l'amato malloppino occupava uno dei palchetti più alti della sua vasta biblioteca. Non erano forse un documento, una prova, della sua infanzia e insieme del suo angosciato dibattersi per non uscirne mai da quella infanzia, mentre invece tutto aveva congiurato a strappargli la via, a sangue, a colpi di paure, di orrende prurigini, di ambigue conquiste intellettuali, di botte da orbi. Sentiva in profondo che se la vita è corruzione e abiura, dovrebbe essere altissimamente morale contrapporre alla sua eroina il movimento contrario del riscatto, del disseppellimento affettuoso. E così era stato per quei suoi giornalini, gelosamente tutelati come uno dei suoi beni più cari. Alti com'erano, i suoi giornalini erano fuori della portata ed anzi del guardo del futuro esserino. Tuttavia, era bastata una frase muliebre ad allarmarlo. «Pensa a quando i tuoi vecchi fumetti verranno buoni per Filippuccio». «Verranno buoni! Sono stati, furono buoni!» avrebbe voluto protestare. «E serbano la loro bontà come una luminescenza perpetua». Ma non parlò. E allora tira giù questi fumetti della biblioteca, Cocco Bill, l'uomo mascherato, Mandrake, perché allora si diceva Mandrake, Nimbo Kid, Papero Popea, Topolineide, Zio Tibia, via dicendo, e dice: è questo un cristallo di sogni, è questo l'unico lampo non triste della vita mia, sono documenti, sono fossili di un'età che mi chiede la pietà di un omaggio, sono cadaverini che si rifiutano di morire, sono ciò che solo io so cosa sono, e questo dovrebbe venire usato, dovrebbe tornare attuale, domani attuale. Questi coagoli mostruosi, questi sovrumani concentrati della mia malinconia, questi monumenti della mia solitudine, queste cose sacre, dovrebbero finire in mano a una creatura amata, certo, consanguinea anche, di una creatura sbavante che me li pasticcerà con osceni pastelli e con più oscene penne biro. Ecco, questo era da Tu, sanguinosa infanzia, di Michele Mari, edizione Mondadori. Cito di sfuggita altri romanzi di Michele Mari, per esempio I sepolcri illustrati, ovvero Foscolo a fumetti, oppure Tutto il ferro della Torre Eiffel, Verderame sui misteri della memoria, Rosso Floyd su Pink Floyd. Io invidio chi non li ha ancora letti, perché se lo farà lo aspetta una grande esperienza. Ma volevo parlare di Fantasmagonia. Fantasmagonia riscrive le biografie letterarie. Divertentissimo quello sui fratelli Grimm, ma mi interessa adesso la biografia di Emilio Salgari, scritta da Michele Mari, parlando di questo omino coi baffi, Emilio Salgari, che fra i debiti, i problemi familiari, i figli, creava pirati e guerrieri e avventure fastose, che hanno non solo esaltato dei ragazzini un po' antichi, ma era la lettura preferita del Che Guevara, segno che i rivoluzionari sono bambini eroici. Emilio Salgari, che un giorno, mitemente uscendo di casa, fece harakiri con un rasoio, lasciando la famosa lettera ai suoi editori. A voi che vi siete arricchiti sulla mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una continua semi-miseria e anche di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dato, pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna. La guardiana del faro. Questa dunque è la biografia di Emilio Salgari, scritta da Michele Mari. Oh, questo racconto non è tagliabile, nonostante i tempi della radio, è intagliabile, perché se lasciassi cadere una sola parola sarebbe un sacrilegio e un falso imperdonabile. Il racconto si intitola Mamapracem, che ha una vaga assonanza con Mompracem, e poi scopriremo perché. Quando il terribile pirata Sulgorian fu ucciso, il suo sangue non si sciolse nelle acque tempestose dell'Oceano Indiano, ma scese unito e orgoglioso negli abissi. Là si incontrò con il sangue di Kraken morente, e dai due sangui nacque una forma di vita indomabile e avventurosa. Crebbe la forma e fu demone del coraggio e della fierezza, e ovunque si desse cimento essere là. E ovunque la fosse, scaturivano imprese e gesti estremi ed atti di truculenta ferocia. Imperi furono fondati e distrutti per essa, principesse rapite, torti raddrizzati, giovani vite stroncate. E l'onda del sangue era l'onda del rum, e lo splendore delle pietre preziose era lo splendore dei cris. Poi, dopo aver dominato in lungo e in largo l'immensa estensione di acque e di terre compresa fra la costa del Malabar e l'arcipelago della Sonda, la forma sentì vaghezza di nuovi orizzonti e si spostò in Africa, fra le dune del Sahara. Da lì poi varcò il grande oceano e diede norma alle gesta dei figli di Manitou, accompagnandoli ai pascoli del cielo. Fu quindi nei ghiacci dell'Alaska e in quelli del Polo, poi nella steppa, poi nella foresta amazzonica e negli arcipelaghi del Pacifico, e al suo passare l'Algonchino e il Kirghiso levavano il capo, annusando l'aria, e al suo passare l'Orinoco si tingeva di rosso, e al suo passare il Reietto scuoteva ruggendo i suoi stracci. Per secoli quel furore corse il mondo, finché un giorno la forma provò il desiderio nuovo di sapersi. E per sapersi, intuì che doveva uscire da se stessa e vedersi com'era e raccontarsi. Dunque si oggettivò in qualcosa che fosse altro da sé, in qualcosa di piccolo e mite e di sedentario. E per farlo, scelse un punto del mondo che non fosse Giava e non fosse la Malacca, non fosse Khartoum e non fosse Trepang. Un punto che si chiamava Verona. Fu così che un giorno d'agosto del 1862 nacque Emilio Salgari, omino metodico e tranquillo. E più lo era, e più la forma godeva, perché si preparava a conoscersi senza farsi conoscere. E quando, come Emilio, fu grandicella, essa incominciò a ricordare, e tutto quel sangue e tutte quelle onde si trasformavano immediatamente in inchiostro, un inchiostro violetto fatto dall'omino con le bacche del mirtillo e del ribes. Scrivendo, ruggiva e si agitava l'omino, perché quelle avventure le aveva vissute tutte, e scrivendole le riviveva. Ma dentro di lui la forma lo persuadeva che si trattasse di invenzioni e rideva. E perché il suo trionfo, cioè il trionfo della forma, fosse perfetto, assegnò all'omino una moglie malata e una nidiata di bambini e lo trasferì nella sommessa città di Torino, capitale del regno della più squallida e antieroica dinastia che fosse mai apparsa sulla faccia della terra. E lo fece abitare in appartamenti angusti e umidi, dalle cui finestre si vedevano solo panni ad asciugare, e lo afflisse di debiti e di noie giornaliere meschine, e gli procurò editori cinici e ottusi, perché anche scrivere fosse un lavoro senza piacere. E quando l'instancabile scriba le ebbe raccontate tutte quelle storie, la forma tornò a scatenarsi nel mondo per dargli sempre nuovo alimento. E molte altre giovani vite furono spente per questo, molte altre gole tagliate, molti altri cuori palpitanti strappati dalla loro sede e divorati crudi, brano a brano. Capitava che Emilio Salgari si assentasse per intere giornate camminando nei boschi e sulle colline. Questo diceva alla famiglia, che aveva fatto l'abitudine a quelle sparizioni. In realtà, egli tornava sui luoghi della sua selvaggia giovinezza, dove, fasciato di sgargianti fusciacche e armato fino ai denti, l'occhio naturalmente bistrato, lanciava l'antico grido di guerra contro il nemico, e quello che al ritorno prendeva per succo di mirtillo e di ribes era sangue. Sangue di guerrieri trafitti su tolde pericolanti, tra il fischiare delle palle e il gemito dei moribondi. «Dove sei stato, babbino?» gli chiedevano i figli. Ed egli, che sapeva e non sapeva, che credeva e insieme dubitava, e però sempre segretamente sperava, rispondeva evasivamente, indicando un punto a oriente, «Laggiù, sono stato a passeggiare laggiù». Perché era questa la grande astuzia dell'avventurosa forma. Pronunciare una parola come Malabar, con la forza di persuasione e l'intensità evocativa di chi c'è stato, ma anche con l'avidità musicale e lo struggente rimpianto di chi non c'è stato. Per questo l'omino doveva documentarsi su grandi atlanti e libri di viaggio, come se senza quegli appigli lui, che era stato tutto, non fosse nulla. E quando, nei primi tempi della sua attività, egli si imbatté in un puntolino su una vecchia carta geografica del Borneo, un puntolino che si chiamava Monprachem. Egli, che in quell'isola aveva avuto il suo inaccessibile covo e che ad essa aveva imposto quel nome, se ne impossessò con la naturalezza di chi si china a raccogliere qualcosa che gli era appartenuto e insieme con la gioia di aver trovato qualcosa di nuovo e di sconosciuto. Così finalmente la forma si seppe. E ricapitolando tutte le proprie avventure, godeva di un godimento trascendente. se non che nella pienezza di quella gloria si era insinuata la rima di una pena sottile, perché l'esperienza del quotidiano squallore della vita di Emilio Salgari era ormai divenuta parte essenziale della biografia della forma, la quale, ora che si conosceva, avrebbe voluto liberarsi di quell'ingombro così discontinuo al fulgore dell'avventura. Avrebbe voluto e volle. E sapendo che nulla illuminava i grigi giorni dell'omino se non la scrittura che lo faceva fratello dei suoi eroi, gliela tolse per sprofondarlo nella tenebra della disperazione. «Monprecem», pensò Salgari. Ma dal pennino, fissato alla fragile cannuccia con un filo, uscì la parola «mprucciom», poi «mema porcem», poi «mprecen» e poi «mama praciam». Così l'omino spezzò la cannuccia e corse a oriente, nel bosco di San Martino, per sottrarsi alla vita e alla esosità di chi, dopo averlo usato, aveva spezzato lui. Ma poiché un riflesso della luce di tutte quelle storie ancora lo abbelliva, seppe morire in modo tragico ed eroico, e con quell'unica lama di rasoio annichilì le migliaia di lame e di palle e di nodi scorsoi di cui andava fiera la forma. In quel preciso momento le cose si rovesciarono e la forma, anziché liberarsene, fu asservita per sempre alla memoria dell'uomo che le era stato servo, poiché i Sampan e i Tugs e i Dayaki e il Forte di Maracaibo e le Sunderbunds e Tremalnaik e Sandokan e Yanez e Van Gould e Brook e il Corsaro Nero e tutte le bestie e tutte le piante e tutti i nomi che erano stati anche senza l'omino non poterono più fare a meno di lui e riducendosi a sue emanazioni divennero veramente parole scritte con inchiostro di bacche. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara amica Barbara, sono stufa di vivere in paese. Qui nessuno si fa i fatti propri. Io ho bisogno di una plastica facciale. L'ha detto anche il chirurgo perché sono davvero bruttina. Ma qui tutti dicono la loro. Per non parlare poi del mio ex e dei suoi parenti che mi vogliono far fare un viso a loro piacimento. Guarda un po' se per una plastica verrò comandata come un burattino da tutti. In città, quando una ragazza o un ragazzo si vuole fare la plastica, la fanno subito, senza dar conto a nessuno, a loro piacimento. Conosco una ragazza di Milano che si è rifatta il mento, il naso, gli zigomi, ha scelto il viso che le piaceva di più. E ora è felice. Me ne sbatto dell'assistente sociale, del dottore e della dottoressa che ha messo in mezzo ai miei problemi mio padre e mia madre. Neanche loro possono comandare su di me, non è vero? Il viso piacerà solo a me e l'ho scelto. Sono maggiorenne, seria e intelligente. Ivana. No, un momento. Mi devo riprendere. No, scusa, devo richiudere la bocca che è rimasta aperta e le mosche stanno facendo a gara. Cioè, di stranezze ne ho sentite viste parecchio, ma questa è veramente nuova. Cioè, ma allora la vita è tutto un Almodovar. Tutti sanno che i paesani si fanno gli affari altrui. E non perché siano più cattivi dei cittadini. L'umanità è spiona e invadente sempre, dovunque. Però in città, per quanto tu possa essere un impiccione di grandissima buona volontà, beh, l'impiccioneria si disperde, perché è un po' difficile tenere sotto controllo qualche milione di persone. Però che un paese potesse cercare di influenzare l'aspetto della futura faccia di una ragazza è inaudito. Sembra che si tratti di acquistare una maschera. Sembra che tu stia scegliendo un travestimento per carnevale. Ma come possono cercare di imporre il loro punto di vista in una scelta così personale che più personale non esiste? È una decisione tragica in qualche modo, sofferta. Non è che ti sei svegliata la mattina e hai detto «Toh, basta con questa faccia». L'avrai deciso perché dopo 36 anni hai capito che non puoi più vivere col tuo viso naturale e non voglio discutere la tua scelta, avrai le tue ragioni. Però, che film, che farsa. tutti i parenti davanti ai modelli. Non so, presi dalla TV, dai giornali illustrati. No, il naso lo vogliamo come Asi Argento, no? Il mento alla Isabella Ferrari. No, no, come Ambra. Uno si impunta. Ah no, io mia cugina la voglio come Belen. No, piano. C'è un limite anche all'essere consumisti, ottusi e materialisti. Ma è possibile che un umano si debba cambiare per fare contenti quelli che manco gli vogliono bene? Noi non siamo degni della tecnologia e della scienza. Ci sarebbe voluto un adeguato progresso morale e intellettuale, e invece è il contrario. L'umanità più sa fare e meno sa. Però vedi, Ivana, ti devo dire una cosa consolante, che i film di Almodovar non finiscono mai male, perché i loro personaggi sono lasciati al loro inferno, al ridicolo e all'assurdo. Io credo che tu, e pure tutti gli altri, piuttosto che alla faccia, dovreste farvi una plastica all'anima. Lei se n'è andata e io piango. Non lo faccio apposta. Le lacrime vengono da sole quando meno me le aspetto. Era tutto per me. Sì, ho esagerato. La picchiavo. Una volta per punizione le ho schiacciato il polso dentro un cassetto. Poi mi pentivo e lei mi perdonava perché avevo per lei mille attenzioni. Poi questo carattere maledetto mi costringeva a farle male, ma dopo baciavo i suoi lividi e le promettevo che sarei cambiato. Un giorno di colpo non ne ha voluto più sapere. Non mi ha creduto più. Se n'è andata, ha fatto perdere le tracce. Sarei pazzo a sperare che lei ascolti questa radio. Lo so che non tornerà. Ma se mai dovesse accadere questo miracolo, io sono un altro. Per lei non sento che dolcezza. Non sarei più capace di violenza. Ma non lo saprà mai. E io piango. Un uomo solo. Maschio, non piangere, che ti si sciupa il trucco. Asciugati le lacrime con discrezione, in modo che il mascara non coli giù per le guance. E sai, non dona, eh? Parlo di trucco simbolico, di questa mascherina che ti sei messo, così piccola da non riuscire a coprirti quel sorriso di beatitudine quando racconti cosa le facevi. Ti viene quel sorrisino da intenditore. Ah, che rimpianto. Ah, quando le facevo i lividi. Ah, quando le ho rotto la mano. Quelli sì erano tempi, ragazzi. Che nostalgia. Darei un anno di vita per poterti rimettere le mani addosso un'ultima volta. Questo dice la tua lettera, eh? E lei così docile. Chissà che armonioso circolo di intenzioni fra voi. Io capisco il tuo dolore. Tu, sadico convinto, lei, masochista accanita, a te piaceva darle, a lei prenderle, e tutti e due andavate pazzi della commedia del pentimento che sempre coronano queste cose, no? Sapendo che quando dicevi non lo farò più, le stavi promettendo ti farò peggio. Ti è scappata la vittima, lo credo che soffri. Ti sono vicina, perché so che il lutto dell'aguzzino è inconsolabile, finché non trova un'altra. Così come lei si sarà trovata qualcuno che saprà farla soffrire meglio di te. Un po' più raffinato o più affascinante, un artista del ramo, davanti al quale le tue torture elementari le sembreranno prove da manovale. Cara Barbara, sono felicemente sposata con un uomo che amo e ho due figlie. La mia vita scorre tranquilla, però ultimamente ho un pensiero ricorrente che mi disturba e che non riesco ad allontanare. Tempo fa su Facebook sono andata a curiosare sulla pagina di un mio ex fidanzato. E che ti trovo? Foto della famiglia ideale. Bella moglie, villettina, figlioli biondi, sorrisi, eleganza e successo. Mi è montata una rabbia terribile pensando che nel periodo in cui stavo con lui, 7 anni, ripeteva che non si sarebbe mai sposato, mai fatto figli in quanto simbolo della decadenza umana. Quando uno non ha più nulla a cui aspirare, fa un figlio che gli possa riempire il vuoto. Parole sue. Passava il tempo a dirmi come vestirmi, come comportarmi, perché io non andavo bene mai. E dopo 7 anni di tutto pagato rigorosamente alla romana, non mi ha mai offerto nemmeno una pizza. Mi ha mollato in un paio d'ore, dicendo che potevamo rimanere amici. È ancora convinto che sono stata io a lasciarlo, perché non l'ho voluto rivedere mai più. Ma la cosa che meno sopporto è che tutta questa grande meraviglia trovata su Facebook se l'è fatta lavorando in una multinazionale, un posto trovato da me. Sono molto arrabbiata con me stessa, perché mi sono fatta maltrattare per anni e avrei una gran voglia di un po' di legge del contrappasso, che si sentisse lui inadeguato, fuori luogo e sciatto come mi faceva sentire. Oggi sono una donna forte e se qualcosa non va con qualcuno me lo mangio, non mi faccio mettere i piedi in testa come facevo con lui, ma vederlo così è il mio tallone d'Achille. Che fare? Baci, Rebecca. Beh, Rebecca, la tua lettera mi ha fatto ridere. Un po' perché ci solleva vedere qualcuno preso da un'ossessione dalla quale ci crediamo salvi, immuni, perché da un punto di vista razionale, cioè molto parziale, uno direbbe: ma che te ne frega, scusa. Ti sei liberata di quel tipo che aveva come missione di farti sentire un'immondizia. Hai un marito, dei figli che ti vogliono bene, ti apprezzano, ma che ti importa se lui ha fatto il contrario di quello che diceva e ha avuto anche fortuna in questo? Fregatene, no? Dice il conscio, che è tanto giudizioso e bada all'utilità. Ma l'inconscio è barocco, pieno di ghirigori ed è pure un selvaggio. Gli rode e basta. E lo spiaccicherebbe al muro. Ti pare che l'abbia fatto alla faccia tua. È che non ti perdoni di esserti fatta mettere i piedi in testa da questo remoto individuo e glieli vorresti mettere tu almeno una volta. Insomma, ti brucia la frustrazione di una vendetta impossibile. Io lo so che non ti consola e né ti farà dormire meglio, ma la vendetta lui se l'è fatta da solo. Ma tu pensa, poveraccio, pensa che tristezza avere bisogno di mettere su Facebook le prove del suo sogno capitalistico ariano, col prato ben pettinato, il SUV Cafonal negligentemente parcheggiato a bordo piscina e i figli biondi con gli occhi azzurri, a parte che portano Iella implacabile. Ma pensa alla miseria di tutto questo. Ora, prima dell'avvento di questo mezzo, cioè YouTube e via dicendo, io mi ricordo con terrore l'incubo delle famigliole felici, che non paghe di cinguettare davanti agli ospiti quando ti invitavano, completavano l'ostentazione del quadretto familiare sbattendoti davanti agli occhi l'album di foto. O peggio ancora, le diapositive o il filmino di un viaggio e della loro perfezione. Adesso Facebook e l'album di foto allargato. Tutti l'hanno sapere quanto sono belli e abbienti loro. E tu vai a cascare in questa trappola e invece di compatirlo non ci dormi la notte. Guarda, questo è un monito a reagire in tempo e a non lasciare partite in sospeso. E i piedi in testa, se te li sei fatta mettere, stacci. È stato, è la storia, è il passato. Per le ossessioni, oltre alla cura del sonno, c'è un solo modo: riuscire a farci sopra una bella risata. E con quella seppellire il passato e il tuo irrilevante ex. Cara Barbara, ho ascoltato con interesse la storia di Pierpaolo, che ama da anni una donna che ora, depressa e avvilita dalla vita, lo fugge. Una bella storia dolorosa e intensa. Mi è venuta in mente questa bella poesia dell'uruguaiano Mario Benedetti che le invio. Oriana. Grazie Oriana. Io leggo la poesia e spero che Pierpaolo l'ascolti, e se no l'ascolteranno degli altri. Questa poesia di Mario Benedetti si intitola Tattica e strategie. La mia tattica è guardarti, imparare come sei, volerti come sei. La mia tattica è parlarti, costruire con parole un ponte indistruttibile. La mia tattica è rimanere nel tuo ricordo, non so come né con quale pretesto, ma rimanere in te. La mia tattica è essere franco e sapere che tu sei franca e che non ci vendiamo simulacri. La mia strategia è molto più semplice e più elementare. La mia strategia è che un giorno qualsiasi, non so con che pretesto, finalmente tu abbia bisogno di me. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Se dico Yaya Forte, ma cosa vi viene in mente? A me una donna bionda, fiorente, enigmatica. Enigmatica per semplicità, forse. Mi viene in mente una donna che prende tutte le forme. Nel suo mestiere di attrice, che sia chimera, che sia libera, che siano cose più recenti, non senti mai la finzione scenica. Hai davanti una persona. E così a teatro. Una persona accortissima nella sua arte, però con qualcosa che prevale su ogni ruolo. ed è l'innocenza. Se dico Yaya Forte, mi viene in mente l'innocenza. Che sia nel suo esordio cinematografico, i tre ruoli di Libera con Pappi Corsicato, e poi Chimera, i buchi neri. È come se Pappi volesse farla cimentare con tutti i suoi modi di essere Yaya e scoprirne sempre di più quelli che lei non sa di avere. Che lei sia una Molly Bloom napoletana col testo di Ruggero Guarini, oppure la madre orrenda di No Problem, ma sempre quella cosa prevale, scavalca il copione e ci vola sopra, ne fa come un aeroplano di carta, perché lei è sempre una bambina stupita che è piombata nel mondo. E non è ostile agli indigeni, cioè a tutti noi. Ci guarda con rispettosa ingenuità. È capace di amarci anche, ma non sarà mai dei nostri. Io Yaya la vorrei, come madre, come vicina di casa, come cuscino, come amica, come compagna di lavoro, compagna di viaggio, per questa affettuosità quasi bestiale che promana dalla sua persona. E dirò la cosa estrema: se dovessi dividere con lei una cella di prigione, credo che non si avrebbe da lei alcun disturbo, ma conforto soltanto a guardarla. Per me Yaya è un mistero dell'allegria. Qui Capitaneria di Porto, l'attrice Yaya Forte è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Yaya! Ciao Barbara. Yaya, dove ti trovo? Sono a Torino, sto recitando I promessi sposi alla prova di testori con Chiezzi, dove faccio la monaca di Monza. Ma in realtà è un'attrice di una compagnia che recita la monaca di Monza, alcolizzata completamente, e che odia il suo capocomico perché avrebbe voluto fare la protagonista, e invece pensa che la protagonista sia Lucia e si vuole prendere sul campo tutto lo spazio che pensa che gli è stato tolto. Senti, ma c'è una cosa che vorrei sapere sul mistero dell'attore. Ma tu dimmi, com'è essere tanti, essere tante vite? In voi abitano dei bellissimi testi nel tempo. Pensa che compagnia durante la malattia, durante le file, che modo sontuoso di far passare il tempo se si soffre. È così, Yaya? Sì, veramente lo reputo un privilegio assoluto l'idea di poter incarnare delle vite che non sono le tue, che sono sempre più grandi delle tue, perché comunque un personaggio di Shakespeare o di Molière è sempre più grande di te. È vero che imparando a memoria, io ho una memoria un po' spappolata, però ogni tanto in certe situazioni della vita mi vengono sopra come delle reviviscenze, dei frammenti di un pensiero di questi grandi autori, e mi direzionano la mia psiche, la mia anima verso la cosa, per cui è un privilegio profondo. E poi nello spappolamento delle vite, secondo me, si riesce a individuare più profondamente la propria essenza. Non è uno sperdimento della propria psiche, ma è una possibilità di guardare con più acutezza dentro di sé, e quindi un privilegio. Ah, senti, da te che sei una persona visibilmente sincera, vorrei chiederti sulla sincerità, perché io sento sempre dire: ah, io sono troppo sincero, ci rimetto sempre. Ecco, allora secondo me loro tanto vorrebbe essere bugiardi. Poi io non lo credo che sia letale essere sinceri. Io credo che sia un po' come un grimaldello per il ladro che apra la vita. Mi parli della tua sincerità? Naturalmente c'è una sincerità relativa al qui ed ora, sempre, per cui non è mai oggettiva, però essere fino in fondo, fino proprio al implacabilmente nella propria verità, che poi appunto è relativa, ti dà la misura di te stesso, della tua identità nel bene e nel male, e ti libera, cioè la sincerità ti porta comunque verso te stesso implacabilmente, e quella è una pratica utile. Ma ti sei mai pentita di essere stata veramente sincera? No, alla fine no, alla fine forse in una dimensione, diciamo, biografica sì, però in una dimensione più storica, più alta no. Com'è Yaya piccola? È già un'attrice, è già una Yaya attrice? No, in realtà no, io avrei voluto fare l'archeologa, quella era la mia passione, proprio la mia, non pensavo, cioè non ero quelle bambine che tipo adoravano recitare per niente. E anche qua poi facevo la danza, avevo studiato danza, e quando ho iniziato a lavorare con Tony Servillo, lui faceva un teatro molto più sperimentale, molto più fisico, per cui mi sono trovata a lavorare con lui più per la mia provenienza dalla danza che per il desiderio di fare l'attrice. Ero semplicemente un'adolescente un po' inquieta che non sapeva dove incanalare le sue energie, quindi le ha messe là per quei movimenti che c'erano all'inizio degli anni 90 di facciamolo, facciamo delle cose. E poi penso che per un attore la vocazione è una cosa che si scopre in atto e che potrei anche rinnegare, cioè se io domani non avessi più voglia di fare questo lavoro non me ne fregherebbe niente di continuare a farlo, costi quel che costi, anzi mi accorgo che più invecchio, meno ho bisogno dello sguardo degli altri per amarmi, cioè più la mia identità si definisce e meno me ne frega in realtà. Tu hai debuttato in teatro con Toni Servillo. Mm. Il tuo nome è legato ai grandi del teatro contemporaneo: Leo De Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi, Emma Dante. Ma in realtà la mia biografia è scandita da ritorni, spesso sono familiare di natura, per cui tipo 7 spettacoli con Cecchi, 2 con Ronconi, 4 con Tiezzi, 5 con Servillo. C'è una sorta di ripetizione affascinante, perché poi alla fine ci si incontra e si va sempre più in profondità. 3 film con Corsicato, anzi 4. Ecco, tu e Pappi. È una specie di fratellaccio scellerato che mi diverte tantissimo, un po' per come guarda le donne, me ne ha fatte fare di tutti i colori, da infilarmi diciamo in vagina un tacco, a farmi uscire il fuoco, a cose che è difficile nel cinema nostro, che ha una tendenza naturalistica, poter immaginare. La dimensione proprio ludica, infantile, che ritrovo ogni volta con lui, mi sembra sempre di non stare lì con lui a fare un film, ma a giocare come due fratelli terribili. E quest'ultimo film che avete fatto insieme, che uscirà a settembre, che si chiama Il volto di un'altra? Sì, un film sulla chirurgia estetica, è la storia di una presentatrice televisiva interpretata da Laura Chiatti, sposata con un chirurgo, e c'è tutto un imbroglio in questa clinica di chirurgia estetica dove io faccio la capa delle suore della clinica. Ed è un film sempre ironico, sempre appunto acido, un po' con la forma di Corsicato, sull'induzione alla bellezza, alla gioventù, sul rapporto che abbiamo con la rimozione, con la morte, che ci fa desiderare di essere sempre giovani, sempre in forma. Corsicato caccia fuori tutta la sua cattiveria e il suo spirito. Senti, ma il tuo personaggio com'è? È una suora terribile, perché in realtà è una suora ladra, manipolatrice. Senti, la Chiatti che fine fa? Diventa una bambola dell'orrore? C'è tutta una finzione su un incidente che lei ha avuto, che la sfigura, il marito fa credere che l'ha sfigurata per avere dei soldi dell'assicurazione, mentre non è così. E poi c'è la televisione fortissima nel film, perché tutto quello che in questa clinica accade è messo a servizio del pubblico televisivo, cioè c'è una diretta continua, accorrono persone da tutta Italia per poter vedere questa presentatrice televisiva che sarà operata davanti a tutto il pubblico da questo marito chirurgo plastico, ma poi si capirà che è una beffa totale, per cui è insomma una capacità di beccare delle cose dell'Italia, di costume, sempre in maniera divertente. E tu ti sei mai rifatta? Io no. Infatti sono così grassa, cedo alla vita, cedo proprio senza limiti a tutto quello che... Ma io credo che se uno lo fa allegramente, senza dare un'importanza teologica a questo, lo può pure fare, voglio dire. Sì, non no, è che no, sia... no, infatti, ma non per moralismo, proprio per un po' per vaghezza, no. Un po' per... Beh, per non diventare delle bare di se stesse, io personalmente quello che mi trattiene è per non diventare anzitempo la tomba di te stesso, senza sviluppo e senza espressione. No, ma infatti non ho nessun moralismo. E senza memoria. Ho proprio una cosa più pigrizia che moralismo. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.